Pronto, Roberto? Pronto. Ciao, sei qui? Sì, ascolta, il mio libro è Terra degli Uomini. Sì. Che è il libro di Saint-Exupéry, quello del Piccolo Principe. Sì. Tutti hanno letto il Piccolo Principe, nessuno, solo io ho letto Terra degli Uomini. Cioè, sei l'unico in tutta Italia, Roberto. Non lo so. Forse in Europa. Non ho mai trovato nessuno che l'abbia letto. E come ci sei arrivato a sto libro? Ma guarda, stavo partendo per il deserto, che andavo a lavorare per una ditta che faceva aerei, mm-hmm. e ho trovato su una bancarella il libro di questo qui che diceva, che racconta di avventure di pilotaggio nel deserto negli anni 30. Io l'ho letto, mm-hmm. intanto che ero proprio sul posto, per caso, e niente, è il libro della mia vita. Ecco. E adesso quanto tempo è passato adesso, Roberto? Ma adesso, guarda, avevo 22 anni, adesso ne ho 53, quindi ne sono passati di anni. E però fai ancora quel mestiere lì? No, ho cambiato, non ho potuto fare il pilota, ho fatto altre cose, però mi è rimasto l'idea di quei 22 anni nel deserto, insomma. Sì, cioè, e di avere il futuro di fronte a sé e la possibilità di fare tutto, insomma. Ma quindi perdonami, Roberto, poi ti saluto. C'è del rimorso nel rivederlo, nel rileggerlo, nel tenerlo in mano, oppure semplicemente pezzo della tua vita che è andata? È la constatazione che un pezzo della mia vita che è andata, che non ho potuto fare altro, non ho potuto fare il pilota per questioni fisiche, però sarebbe stato bello farlo ed era bello allora avere immaginarlo. L'idea di farlo, ecco. Roberto, ti ringrazio molto e soprattutto ricordiamo per tutti quelli che hanno letto Il Piccolo Principe, Terra degli Uomini.